Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, più passano le giornate e più i numeri ci aiutano a capire. Per esempio, nelle 7 partite del girone di ritorno l'Inter non ha mai vinto e ha collezionato 5 sconfitte e 2 pareggi con le due squadre siciliane in casa entrambe, 4-4 col Palermo e 2-2 abbastanza miracolato ieri col Catania. L'Inter non ha perso, ma ha battuto l'ennesimo record negativo della sua storia, e cioè 541 minuti senza gol, superando i 520 della stagione 1975. E anche la squadra che ha fatto meno punti rispetto alla scorsa stagione è peggiorata di 13 lunghezze addirittura, mentre il Catania, che è a più 8, è il secondo miglior balzo in avanti dopo quello della Juventus, che è a più 10. Però è anche vero che la Juventus, vado sempre avanti con i numeri di Franco Piantanida, è anche vero che la Juventus è arrivato al 12° pareggio in campionato, ed è curioso notare come nei 5 maggiori campionati in Europa solo il Brest dove gioca l'ex juventino Zebina, tra l'altro, abbia pareggiato di più, e cioè 15 volte. 5 pareggi casalinghi della Juventus alimentano quella discussione che già si era fatta qualche tempo fa, e cioè: è vero che il Juventus Stadium è, dal punto di vista dell'entusiasmo, quando le cose vanno bene, un propellente in più per la squadra, ma quando le cose vanno un po' meno bene, non sarà per caso il fatto di essere così ossessivamente vicini alla squadra, no? Così immanenti addirittura rispetto al campo, non sarà questo un handicap quando appunto la squadra fa un po' fatica a ritrovarsi? Una curiosità ancora riferita alla Juventus, e in questo caso anche al Chievo: Conte e Di Carlo si sono affrontati 6 volte in carriera, hanno sempre pareggiato 6 volte su 6, mentre la tripletta di Ibrahimovic è soltanto, dico soltanto per modo di dire, ma è soltanto la seconda in tanti anni di campionato italiano, perché ne aveva segnata un'altra nell'aprile del 2005 in Juventus Lecce. E infine per il momento, poi ci saranno altre curiosità su Roma-Lazio per esempio, e infine è curioso notare come il Milan avesse perso le ultime 5 partite consecutive a Palermo, dove ne vinceva dal 2006, e aveva invece dominato quella di sabato, che se non altro per ragioni di organico, è vero che rientrava Ibrahimovic, ma è vero che i giocatori erano praticamente contati, come la saranno anche domani sera a Londra, insomma le premesse della vigilia potevano anche essere un tantino diverse. Sentirei qualche ripasso vocale, ma cominciando proprio della domenica, cominciando proprio da Inter Catania, non solo perché è stato il posticipo, ma anche perché, per chi ha seguito per intero la partita, insomma, è abbastanza difficile rendersi conto di come una squadra che ha dominato così nettamente, giocando anche un gran calcio come il Catania per oltre un'ora, poi alla fine abbia rischiato la sconfitta quando Pazzini si è impappinato, come già gli era successo la domenica precedente, sul pallone decisivo. Forse è stato l'orgoglio la molla principale. Sentiamo Milito. Sono fiducioso che questo sia un punto per ripartire. Abbiamo, credo, dimostrato grande orgoglio. Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Stavamo giocando secondo me meglio, e alla prima occasione ci fanno gol, e lì si fa dura in questo momento. Credo che secondo tempo siamo andati a giocare la partita tutto per tutto, e credo che siamo riusciti almeno a pareggiare, a dimostrare che almeno che questa squadra ci tiene a cambiare questa situazione, e credo che dobbiamo continuare per questa strada. Simone da Verona domanda, questo è uno dei primi, ma non primissimi sms arrivati oggi, domanda se non devo ricredermi sulla morigeratezza di Luis Enrique. Direi proprio no. Luis Enrique ieri ha detto una parolaccia, mi pare, a Corredo, ma non era diretta né all'arbitro che ha espulso Stenkelenburg e a nessun altro, ha soltanto detto: ho giocato 2 derby a Roma, li ho giocati in inferiorità numerica tutte e due, mi piacerebbe giocarne uno 11 contro 11, invece che mi tocchi sempre questa accidente, mettiamola così, questo accidente di cose. Poi magari la sentiamo. A proposito di Stekelenburg e dell'espulsione, stamane è intervenuto Nicchi, il presidente degli arbitri. L'espulsione del portiere che provoca il rigore è una regola assurda, ha detto, ma l'arbitro di ieri ha rispettato il regolamento. Siamo d'accordo a cambiare questa regola, perché è diversa dal fallo cattivo. Era rigore e basta. E questo mi fa venire in mente che ho letto da poco un fondo di Daniele D'Alessandro Ballera sul Corriere della Sera, che sostiene come il capo degli arbitri, Nicchi, il presidente dell'AIA, stia parlando troppo e troppo a sproposito in questo periodo. Mi pare che anche questo intervento di Nicchi sia assolutamente in linea con il commento di Dallera, perché sinceramente che questa regola possa essere da cambiare è un conto, ma insomma, in questi momenti definirla assurda proprio dalla parte arbitrale mi sembra quantomeno discutibile, anche se il top di Nicchi rimane quello della settimana scorsa, quando dopo le intemperanze di Juventus Milan disse: bene, da domani applicheremo il regolamento, come avrete sentito la scorsa settimana. E qualcuno effettivamente era legittimato a domandargli: ma perché fino a ieri che cosa avete fatto, così per nostra curiosità? Il regolamento non lo hanno applicato certamente ieri Valeri a Parma, commettendo errori molto gravi a vantaggio del Napoli e a danno del Parma. L'ha applicato molto male anche Russo a Lecce, come Cosmi ha fatto notare. Nel caso di Valeri è una spiacevole sorpresa, nel caso di Russo è l'ennesima conferma di un arbitro assolutamente inadeguato, io direi, alla Serie A. Poi certo tutto questo si presta a considerazioni accessorie. Giulio Torelli scrive, per esempio, a proposito di Mazzarri e di Donadoni: la sensazione che chi sbraita e piange ottenga qualcosa è una situazione che si avverte ed è alla lunga molto più sconcertante dell'errore umano. Io credo che una volta di più Donadoni meriti ancora più rispetto per i suoi silenzi, che poi quello di ieri sia un silenzio magari concordato con la società non cambia i termini della questione. Certo, cominciano ad essere un po' numerosi i bocconi da mandare giù per il Parma, soprattutto in queste due ultime domeniche consecutive, a Marassi col Genoa e ieri in casa col Napoli. Cos'altro? Beh, tantissime cose. Per esempio una riflessione, dopo magari ne parliamo insieme di questo aspetto, se vi va, che è questo: ieri ci sono stati tre presunti gol fantasmi, o meglio, tre palloni entrati in porta di 10, 20, 40 centimetri, insomma, nessuno si mette lì col regolo. E ci sono stati all'Olimpico col gol di Borini, a Lecce con il gol di Sculli, il primo gol di Sculli del Genoa, e a San Siro con il gol di Isco, che peraltro era viziato precedentemente da un fuorigioco anche abbastanza netto. Bene. Il fatto che, immagino io, che essendoci stata la scorsa settimana quel disastro dell'assistente di San Siro, che ha indotto in errore anche Tagliavento sul gol non concesso di Muntari, si sia alzata la soglia d'attenzione. Magari è una combinazione, magari invece no. Magari può darsi che, avendo avuto quell'incidente di percorso così grave la settimana precedente, gli assistenti abbiano prestato più attenzione, si è concentrati di più, e ieri hanno beccato, comunque valutandoli esattamente, tre palloni che erano entrati non più di quanto non fosse entrato quello di Muntari a San Siro. E insomma, io credo che una riflessione questo la valga. Dopodiché ho trovato molto belle le lacrime di Cambiasso da un punto di vista umano, perché Cambiasso in questi anni per l'Inter mi pare che qualcosa abbia rappresentato, mi pare anche che in questo momento, basta vederlo giocare, rappresenti molto meno al di là della sua volontà, perché l'impegno ce lo mette, però combinare combina poco. Ieri è stato sostituito, e da quando è stato sostituito lui e Palombo, l'Inter indubbiamente è migliorata. Il fatto che si sia accomodato in panchina e anziché inveire con Ranieri o con il mondo, come in genere si usa in questi casi, si sia messo la testa tra le mani e poi si è pure scoppiato in lacrime, secondo me significa che questi giocatori, grandi o campioni o quello che è, insomma, in fondo hanno anche un'anima, no? Hanno anche delle reazioni molto umane, di cui magari non li si fa più capaci in certi momenti. Abbiamo parlato di questa intemperanza verbale di Luis Enrique, tanto vale ascoltarla. E sì, parliamo del derby, di tutti i due derby. Qualche volta mi piacerebbe giocare qualsiasi derby con 11, ma dopo di questa partita è difficile parlare, perché dal minuto 5-6 in svantaggio con un uomo in meno è molto difficile parlare. Non posso parlare, non ho nessuna parola brutta per i calciatori, perché hanno dato tutto, ma tutto si va via al minuto 3, al minuto 4, al minuto 5. È per me un peccato, non è la prima volta, è successo per due volte, che non so che cosa ho fatto per meritare questa merda. Vabbè, insomma, gli è scappata, ma no, non stava riferendosi ad alcuno, stava riferendosi al fatto che in effetti giocare due derby su due, restando a piedi, insomma, restando ieri poi senza portiere dopo così poco, non è piacevole. Non c'è contestazione, anche perché il regolamento attuale, come diceva prima il professor Nicchi, il regolamento attuale contempla l'espulsione per casi di questo genere. Poi credo che il buonsenso prima o poi si farà strada e dirà che dopo 20 anni e passa di questa severità potrebbe bastare, nel senso che se non c'è atto particolarmente violento, insomma, il portiere venga ammonito, insomma, perché la sanzione così aggravata mi sembra francamente eccessiva, quando appunto non c'è volontà di far male all'avversario nell'uscita, semplicemente si sbaglia il tempo e si prende il piede anziché il pallone. Io trovo più grave quello che molti ascoltatori fanno notare. Adesso cerco le mail arrivate e poi vi leggo magari qualche messaggio, le mail arrivate prima e qualche messaggio reale. Mico Pellegrino per esempio scrive: ma non c'era una norma che prevede la sospensione della partita a reiterarsi di cori di stampo razzista, come è successo per esempio ieri all'Olimpico nel caso di Juan? Ma certo che esiste, ma non è più di moda, caro Mico, perché sa che ci sono le mode che vanno, no? Nel costume del calcio italiano, per cui un giorno si sveglia uno e dice ma quello ha bestemmiato, e allora di colpo si cominciano a squalificare non gli allenatori di grido, per l'amor di Dio, si comincia a pescare, no? Nelle seconde e terze fasce o categorie inferiori e si vanno a esaminare i labiali e le cose eccetera per le bestemmie. Poi se va di moda invece la repressione, no? di cori razzisti, allora si interviene o si fa finta di intervenire seriamente anche su questo. Poi la cosa passa di moda e il povero Juan deve mettersi lui il dito sotto il naso, rivolgendosi a questa curva, a questa povera curva, provando con questo gesto a zittirli e in realtà non facendo altro che eccitarli al punto che deve intervenire l'altoparlante con un avviso, ma con un avviso diciamo abbastanza blandino, perché quello che si era detto in tempi ancora abbastanza recenti era diverso, non era un avviso i signori sono cortesemente pregati, no, diceva qualcos'altro mi pare. Cristiano da Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, ogni tanto ci sentiamo. Niente, mi riallaccio all'argomento, è un po' che avevo qua questa considerazione della Juve, no? Io sono tifoso Juventus, ma spero di essere abbastanza obiettivo, insomma ho giocato un po' a calcio, mi piace analizzare. Io credo che abbiamo espresso un ottimo gioco fino a qualche domenica fa, sempre col problema ovviamente di buttare la palla dentro, no? Credo anche che abbia fatto bene Conte un po' a ruotare ultimamente le punte per mettere un po' di concorrenza e per vedere anche soluzioni diverse. Credo altresì che Vucinic 3 gol in 20 partite può avere corso tantissimo, ma non mi basta sinceramente da un giocatore come lui. Ieri sera ha toccato il fondo, mi immagino Del Piero in campo per 30 partite, beh, non avrebbe corso così tanto, ma penso che un 7-8 gol avrebbe fatti, o magari Ciro Immobile che ne ha fatti 20 partite a Pescara. Al di là di quello, ieri però l'ha combinata grossa al mister, perché quando tu stai perdendo 1-0 e lui ha visto che abbiamo dato campo a Chievo, l'ultima cosa da fare è quello di dargli ulteriormente campo, togliendo un centrocampista e rimpinzando i difensori, la squadra. L'aveva già fatta col Genova, diciamo che è un'operazione che si può fare quando mancano 5 minuti alla fine, anche perché dopo becchi il gol sistematicamente e sei costretto a rifare un altro cambio per mettere dentro la punta, per cui quell'errore lì lui si copre sempre quando è in vantaggio, forse è un po' anche di oppressione, di timore, la difficoltà a buttare la palla dentro, e fa sempre questa sostituzione un pochettino obbligata, insomma. Io ho anche la sensazione che i rinforzi di cui la Juventus si è dotata a gennaio abbiano, come dire, un po' complicato la situazione, o forse le gerarchie, cioè hanno dato forse a Conte troppe soluzioni alternative. Naturalmente è una sensazione molto alla lontana, molto epidermica, niente di seriamente documentato, ma certe scelte mi sembrano figlie appunto della possibilità di troppo scegliere, di troppo poter scegliere, mentre fino a quando la squadra è rimasta bloccata, e in fondo una squadra bloccata è praticamente quasi sempre identica a se stessa, finché c'è stata funzionava di più. È vero che ogni tanto poi ruotare devi, soprattutto quando si corre a quella maniera, e questo, parentesi, potrebbe essere il problema di Vucinic, perché Vucinic corre troppo per poter essere irrorato al momento buono, al momento di tirar fuori la sua qualità e di farla valere. Però Però la sensazione è appunto che tutte queste combinazioni possibili diverse, che in fondo non erano poi così necessarie in assenza di infortuni, adesso forse sono un po' cominciati, ma prima in assenza di infortuni e senza le coppe europee perlomeno, forse le cose andavano meglio perché c'erano scelte un po' più obbligate. Francesco Frosinone, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ecco, volevo fare un breve inciso per quanto attiene gli arbitri, visto che prima lei ha accennato qualche situazione incresciosa di ieri. Volevo sapere, in base agli attuali regolamenti, ammettiamo che un calciatore dica sì, effettivamente quella palla è entrata. Allora, l'arbitro sempre e comunque deve dar retta al calciatore, quindi deve accordare il gol, o su un altro episodio del genere, che potrebbe essere un calcio d'angolo, un fallo laterale, o fino a che punto è anche questo in base a quello che è avvenuto in tempi recenti con le combine tra partite, l'arbitro è il supremo giudice, cioè in qualsiasi situazione è lui il guardaline che deve giudicare anche nel caso in cui... Buona la seconda, Francesco, credo. Non esiste nessun regolamento che costringa o suggerisca all'arbitro di interpellare il giocatore, non esiste nessun dovere da parte del giocatore di andare all'arbitro a dare la sua versione. C'è un giudice di gara, anzi sono tre, anzi sono quattro, prossimamente potrebbero essere anche di più. Tocca loro giudicare quello che accade. Se poi qualcuno di loro vuole o vorrà prendere il diretto interessato e responsabilizzarlo al punto da metterlo di fronte a, io sarò sempre in disaccordo su una cosa di questo genere, perché non si vede perché delegare le proprie responsabilità, ma se invece poi un giorno accadrà, va bene, ne parleremo quando accadrà. Io sinceramente questo teorizzare all'infinito i diritti o i doveri in questo genere di vicende sinceramente mi lascia abbastanza freddo. Chi andiamo a sentire adesso? Andiamo a sentire per esempio Ranieri. Io sono abbastanza certo che in assenza di notizie fresche da Piano Gentile, io sono abbastanza certo che la situazione di Ranieri da ieri sera si sia ulteriormente appesantita. Poi vedremo se a questo seguirà l'esonero, insomma, no? Che ormai di questo si sta parlando da settimane. Io credo che un 2-2 in casa rimediato a quella maniera, dopo essere stati alla mercé del Catania per più di un'ora e dovendosi segnare con la sinistra, che in quella fase di superiorità così netta il Catania non abbia, al di là di un gol in fuorigioco per l'amor di Dio, ma non abbia capitalizzato di più, io credo che potrebbe essere stata la goccia che fa traboccare. Poi vediamo. Ranieri: al primo contropiede hanno trovato il gol e lì siamo andati in paura e siamo andati in difficoltà. Per fortuna, appunto, nello spogliatoio ho dei campioni, si guardano in faccia, è stata veramente una grossa reazione e la squadra ha saputo reagire perché era un momento veramente delicato. Non è che incombono sempre le nuvole sull'allenatore, qui incombono sull'Inter. Io capisco che fa notizia farle incombere sull'allenatore, ma la cosa importante è sull'Inter. Il presidente è stato chiaro, siamo tutti uniti, dobbiamo uscirne fuori noi sul 2-0. Le preoccupazioni, ma su Ranieri non mi interessa a me di Ranieri, io guido una squadra e cerco di risollevare e di cercare di fare il meglio per la squadra. Che ne pensa di Mauri, che prima non ha davvero zittito i tifosi come l'arbitro l'aveva invitato a fare e poi è andato da loro ad esultare? Domanda Gianluca Cantoni. Penso che Mauri faccia parte del costume e dell'arredo degli stadi nostri, non è di moda, ripeto, in questo momento, e soprattutto non è il caso di andare a guastarsi, no? con i tifosi, che in quel momento evidentemente stanno facendo qualcosa di cui sono drammaticamente orgogliosi, e quindi è sempre meglio non guastarsi. Luigi, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Senta, io avrei una soluzione, se si può dire, su come risolvere il problema degli arbitri. Oh, dato che erano un centinaio d'anni circa. Abbiamo la soluzione definitiva. Sono le 14:26 e 26, dica. Comunque, scherzi a parte, mi manca un dato però. Attualmente quanto guadagna un arbitro? Guadagna un paio di migliaia di euro a partita, grosso modo. Perfetto. Tre, forse quattro. La soluzione sarebbe molto semplice, perché io penso che il problema non è tanto di cercare sicuramente di limitare gli errori, ma il problema e la cosa più grave è che purtroppo in molti tifosi si pensa che gli errori siano in malafede. Questo è il vero problema, non tanto che l'arbitro può sbagliare, ma purtroppo si immagina che siano in malafede. Sì, non stiamo arrivando ancora, cioè sono passati già 50 secondi, ma stiamo aspettando l'epocale. Se un arbitro diventa un professionista che guadagna 10.000 euro a partita e ogni settimana una commissione delle squadre di calcio, più magari un esponente degli arbitri... Ma ce lo mettiamo... Però ce lo mettiamo Mazzarri in commissione, dato che abbiamo bisogno perché in quel caso abbiamo bisogno di persone, ha capito, equidistanti, di obiettive sicure, no? Quindi lo mettiamo? Però, se ci sono tutti gli... gli allenatori, scusami, in commissione, ci devono stare i rappresentanti delle società, un rappresentante per ogni società. Sì. Si fa dopo ogni partita una votazione... La media. Luigi, è chiaro, la media, chiaro. La media, perfetto. Mi scusi perché incombe la borsa che ci dà a sua volta altri numeri. Non ho detto che siano più attendibili dei suoi, ma insomma non è nemmeno poi così del tutto da escludere. Mi limito a un'osservazione brevissima. Gli arbitri oggi guadagnano forse 3 o 4 mila euro, grosso modo a partita. Lei dice che se ne guadagnano 10 diventa professionisti. Qual è la soglia di guadagno a cui a un certo punto si diventa professionisti? Luigi, grazie assai. Gliela dico io la soluzione definitiva per gli arbitri, scrive Mauro Miatello. Aboliamo i tifosi. Beh, questo è assolutamente impossibile, evidentemente. Marco Traversi, invece, torna su quella che io ho chiamato la povera curva della Lazio e dice: ma io credo si sarebbe meritata di rimanere da sola in quel dopo derby. Invece, oltre al classico rito dei giocatori festanti, e vabbè, devo anche vedermi un distinto signore con sciarpetta al collo festeggiare con goffi saltelli i fischiatori di neri altrui. La sciarpetta è quella con i colori con i quali il signore si è presentato a Madrid da dimissionario e adesso si parla di rinnovo, effettivamente. Anche in questo dopo derby Rea, ancora più che nel precedente, sinceramente, non ci ha fatto questa enorme figura. Leonardo, dalla provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Garanzini. Dica. Io era da un po' che non la chiamo, l'ultima volta sono intervenito sulla trasmissione legata ai suicidi. La chiamo perché sono rimasto molto, come dire, esterrefatto per i cori razzisti e soprattutto per le contromisure che da sempre si dice dovessero essere prese e che invece mai vengono prese per i cori razzisti, appunto la Lazio su Juan. Ma se qualche volta si desse alla squadra una penalizzazione di qualche punto, potrebbe essere un buon deterrente per poter finalmente sconfiggere questa piaga? Non lo so Leonardo, non lo so, io con la penalizzazione di qualche punto, insomma, la responsabilità oggettiva va bene, poi bisogna vedere entro quali limiti e soprattutto per quale genere di mancanze o di colpe o di reati applicarla. Non lo so, io già mi contenterei che le regole che sono state fatte in momenti che sono state varate in momenti particolari venissero poi rispettate, cioè restassero di moda. Ecco, a me basterebbe questo. Se queste regole restassero di moda, ieri l'arbitro Bergonzi avrebbe non fatto solo un breve cenno, no? convocando il capitano Mauri che per responsabilizzarlo, cioè per costringerlo ad andare sotto la curva a responsabilizzare i berciatori o i bercianti, ma e non ci sarebbe fermati nemmeno al successivo breve appello dell'altoparlante, che ovviamente poi le TV che stanno trasmettendo in diretta cercano di non amplificare, perché non bisogna rischiare, no, di inquinare il quadro meraviglioso in cui si sta giocando e quindi svilire il prodotto che loro hanno pagato così a caro prezzo che stanno trasmettendo. Basterebbe che dato che si è scritto che poi se uno insiste la partita viene fermata e poi viene sospesa ed eventualmente viene annullata e data persa, beh, insomma, questo, no? Quando queste cose sono di moda, si sente parlare di questo e si sente annunciare con le maiuscole questo. Poi invece la cosa passa di moda e finisce a tarallucci come ieri, e alla fine un distinto signore, come scrive il nostro amico ascoltatore, di 66 anni, tra l'altro 67, non proprio uno junior, si presenta pure sotto quella curva a festeggiare. Non si sa mai che, no, che per caso si rechi da un'altra parte a sfogare la propria legittima esultanza, ci mancherebbe altro. Leonardo, grazie. Denis, provincia di Venezia, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Dica. Volevo sapere un parere da lei e una soluzione che vorrebbe magari attuare. Io sono tifoso dell'Inter. E praticamente, se è vero che ci sono tutti questi senatori all'interno della squadra, i vari Zanetti, Cambiasso, Zanetti più che altro, non sarebbe magari, se fosse possibile, trovare una soluzione per farlo, per far sì che sia allenatore e giocatore nello stesso tempo nella squadra? E cioè, lei dice, già che fa il bello e il cattivo tempo dentro e fuori lo spogliatoio, tanto vale che lo responsabilizziamo ulteriormente, dice lei. E un'altra, lei attualmente come farebbe a giocare la squadra dell'Inter? Non, guardi, allontanerei da me questo calice proprio a prescindere, eh? E comunque so, c'è chi ci deve pensare, non credo nemmeno che sia... che sarebbe poi così impossibile, perché la ricetta degli allenatori, e io certamente non lo sono, che subentrano, quelli che davvero cambiano la stagione o la raddrizzano, che poi, e la ricetta vincente è quella della semplicità, del, non so come dire, il ritorno alle origini, alle vocazioni soprattutto, per cui se uno sa fare quello deve fare, dosaggio dei giovani, perché più le situazioni sono difficili, e più i giovani vanno dosati, tocca ai vecchi tirar fuori la squadra dalla situazione in cui l'hanno grosso modo cacciata loro principalmente, ma certo innanzitutto nel rispetto dei ruoli e poi motivazioni e poi cosa, dopodiché sulle scelte, guardi, fino a 2 settimane fa per esempio sentir parlare di Forlan sembrava un peccato mortale. A me sembra che oggi Forlan sia complice anche la lunga sosta che ha avuto per infortunio, mi sembra che sia il più vivo forse dell'Inter o uno dei più vivi, e mi sembra che se per esempio devono giocare solo 2 attaccanti oggi come oggi abbia un senso giocare con Milito, ma giocare anche con Forlan e non certamente giocare con Pazzini per esempio, però oggi è così, tra 2 settimane che ne sai, e soprattutto che ne sappiamo noi che non li vediamo allenare mai e che li vediamo soltanto la domenica e magari nemmeno tutte le settimane, è detto tra noi. Guido, provincia di Ancona, buongiorno. Buonasera, Garanzini. Dica. Ascolti, io ieri mi sono visto in TV Lecce-Genoa. Sì. Sinceramente l'espulsione, dato che stiamo parlando di espulsioni, di Cosmi, mi è sembrata più che giustificata, anche perché insomma sempre se un atteggiamento dall'inizio della partita fino a che non è stato espulso, piuttosto, diciamo, sembrava piuttosto arrabbiato, per cui l'arbitro per me, secondo me, non ha fatto altro che mandarlo fuori giustamente. Io penso che degli atteggiamenti così non siano appropriati, anche perché Cosmi è un ottimo allenatore e il secondo tempo, secondo me, il Lecce ha giocato meglio che non il primo tempo. Forse perché non c'era Cosmi, dice lei? Sì. No, adesso Cosmi è stato artefice di una rigenerazione del Lecce che è oggettiva, è sotto gli occhi di tutti. Cosmi ha valorizzato le risorse migliori del Lecce, che sono non soltanto quei 2 attaccanti, ma insomma principalmente quei 2 attaccanti che potrebbero anche essere destinati a una signora carriera, e ha fatto un bel po' di buone cose. Dopodiché Cosmi in panchina un energumeno, questo, ma non da oggi, questo da ieri, lui stesso lo riconosce, se fosse, non lo sto insultando, se fosse qua a parlare con me direi come mai uno come te che fuori dal campo è una persona non solo educata ma una persona divertente, spiritosa, autironica, perché ti comporti così in argomento? Perché evidentemente il transfer agonistico, che in alcuni rimane comunque sotto un ragionevole controllo, nel caso suo no, assolutamente no. Che ne pensa di Villas-Boas? Mi domanda un ascoltatore, di cui adesso non riesco a ritrovare il nome perché il messaggio è andato lentamente, vengono sepolti, no? Dai nuovi che arrivano. No, non lo trovo. Villas-Boas, eccolo qua, Sergio, tassista milanese. Penso che questa disavventura al Chelsea potrebbe fargli bene, perché Villas-Boas è molto giovane, ha 33-34 anni, è un teorico, cioè uno di quelli che a calcio non ha mai giocato, e quindi da teorico ha fatto bene, è cresciuto alla scuola di Mourinho e va bene, poi si è affrancato, è andato a Oporto e ha fatto benissimo l'anno scorso, quest'anno ha fatto un salto di qualità indubbiamente andando al Chelsea si è uno alla volta, si è messo in fila frontalmente contro tutti i Lampard, tutti i Drogba, quindi questo può essere un segno di grande personalità, e non è detto che, essendo alcuni di quei senatori un po' bollitelli, non ha detto poi che avesse torto lui e ragione gli altri, magari è il contrario. Però insomma diciamo che si è misurato con un livello diverso di gestione di giocatori, no? e di grandi personalità. Credo che questo bagnetto di umiltà obbligata potrebbe fargli bene per il futuro. Giuseppe Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. In riferimento a Reia che saltellava, basta ricordare chi lo ha chiamato alla guida della Lazio. Si è mosso tutto il Gotha di AN ai tempi, quindi è un adepto. Beh, però, senta, io che il Gotha di AN sia felice di sentire i cori razzisti della curva della Lazio, insomma, se mi fa due o tre nomi posso anche crederci, ma se parliamo di maggioranza direi proprio di no, io penso. Esattamente, no, condivido, però sa, l'estrazione è quella. Sì, lei dice che sì, i padri nobili, vabbè, e poi? No, niente, e poi basta. Solo a questo, i nomi di chi l'ha ingaggiato, dice lei. No, può bastare così. I nomi possiamo anche risparmiarceli. Tra l'altro, poi che sappia, io l'ha ingaggiato Lotito. Poi Lotito può aver avuto dei consulenti determinanti o meno, io questo davvero non lo so, l'ho appreso adesso da lei e però ci terrei a distinguere, insomma, tra, perché non credo che non credo che ci possa essere una matrice politica, lei ha parlato di AN, quindi una matrice politica ex di governo che può non dico sponsorizzare, ma nemmeno non avere ribrezzo, insomma, no? Per questo genere di cose, sinceramente fin lì non arrivo a crederlo. A proposito di esagerare, l'Interpol è niente meno che ha partecipato stamane ufficialmente ad un convegno a Roma per combattere il calcio truccato. L'Interpol ha consegnato a Giancarlo Abete, presidente della federazione, una medaglia d'oro da girare a Simone Farina, il difensore del Gubbio, che aveva rifiutato quei 200.000 euro per truccare una partita e soprattutto che aveva denunciato il fatto. L'Interpol, per esagerare, ha anche lei o anche lui, non so se l'Interpol è maschile o femminile, ha definito Farina un eroe di cui il calcio ha bisogno. Il 5 marzo di Nicola Filippone. Sembra ieri. 5 marzo 1950. Bologna, stadio comunale. La nazionale ospita il Belgio per un amichevole che riempie completamente lo stadio del capoluogo emiliano, pista d'atletica compresa. Gli azzurri vincono 3-1, trascinati dal debuttante Hermes Muccinelli. L'ala della Juventus, subentrato al proprio compagno Boniperti, realizza due gol e si iscrive così nel club esclusivo degli autori di una doppietta all'esordio in nazionale, impresa che era riuscita a due miti come Meazza e Piola. La seconda rete di Muccinelli è la numero 400 nella storia della nazionale italiana. Il gol del 3-1 finale lo segna invece l'interista Amadei. Beh, questo accadde, avete sentito, 62 anni fa al Comunale di Bologna, che ieri è stato teatro non tanto della vittoria di Bologna sul Novara quanto della toccante celebrazione collettiva in memoria di Lucio Dalla, e che poi mercoledì sarà teatro a sua volta del principale dei tre recuperi di campionato previsti, e cioè quello che vedrà la Juventus tentare di prendere tre punti che la riaggancerebbero al Milan al comando della classifica. Oggi, indubbiamente, dopo i risultati di sabato, l'inerzia del campionato sembra assecondare o propiziare comunque una controfuga milanista. La Juventus ha la possibilità di stopparla subito fin da mercoledì, anche se contro sul campo del Bologna facilissimo non sarà. A proposito dei numeri, riprendo quelli che Franco Piantanida ha preparato come ogni lunedì. Beh, probabilmente sapete ormai a quest'ora che la Lazio non vinceva tutti e due i derby di campionato dal 97-98. Stekelenburg è l'undicesimo espulso negli otto derby romani, negli ultimi otto derby romani, quindi negli ultimi quattro anni, otto derby, 11 espulsi. Ed è l'ottavo espulso della Roma in questa stagione, record negativo assoluto, nessuna squadra ha avuto più giocatori cacciati dal campo della Roma. Augusto ha chiamato da Forlì, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo chiedere, ormai non le sembra che possa essere arrivato il momento di trovare una soluzione per eliminare il fair play sul campo di tutti questi giocatori che, quando vedono che c'è una ripartenza alla quale potrebbero far fatica controbattere, si buttano per terra? Ah, lo chiama fair play lei questo? Ah, beh, cioè, lo chiamano fair play, però dico, non si potrebbe obbligare chi fa vedere che si è fatto male di star fuori dai 5-10 minuti? Ma perché? Ma perché, Augusto? Ma mi dica una cosa, ma perché dobbiamo continuare a cambiare le regole, aggiungere codicilli, derubricare, arricchire? Perché non accettiamo invece semplicemente il regolamento? Il regolamento sostiene che l'unico che può fermare il gioco per un incidente di gioco, per l'appunto, è l'arbitro. Basta. Se l'arbitro fischia, il gioco si interrompe. Se l'arbitro non fischia, non si interrompe. Dopodiché, se un giocatore, che però non è tenuto a farlo, sia ben chiaro, valuta che il contrasto, il colpo, insomma, quello che un giocatore della propria squadra o della squadra avversaria ha subito è di particolare gravità o richiede un soccorso immediato, prende la palla e la butta fuori. L'arbitro non andrà mai da lui a, che ne so, ad ammonirlo, no? per comportamento non regolamentare, e farà un bel gesto, che poi ogni tanto a fare un bel gesto magari passi da pirla, perché era un avversario che davvero si è buttato e l'interessato c'è cascato. Però insomma, io lascerei questo margine di possibilità, non dico discrezionale, ma di possibilità individuale, no? di valutazione di un incidente che magari per chi è in campo ha avuto una suggestione, ha impressionato più di quanto invece non appaia dalle telecamere. Ma di norma il gioco lo interrompe soltanto l'arbitro. Questo è stato ribadito non so più quante volte, quindi non vedo perché dobbiamo arrivare all'espulsione temporanea e a tante altre cose che farebbero somigliare il calcio ad altri sport che, me lo lasci dire, non hanno lo stesso appeal e nemmeno lo stesso successo. Stefano Reggio Emilia, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Dica. Volevo fare due brevissimi incisi. Uno riguardava Del Piero, che secondo me, con quei due piedi lì che vengono proprio donati dal cielo, farebbe fare brutta figura a Conte e ad Andrea Agnelli se da adesso in avanti gli togliesse le castagne dal fuoco riguardo all'attacco. Boh, io penso che la farebbero volentieri, sa, quella brutta figura. Anche lì, secondo me, però. Se fosse vero quello che dice lei, io credo che la farebbero volentieri la brutta figura. Io invece ho l'impressione che, senza, per l'amor di Dio, discutere la qualità di quei piedi, ma bisogna sempre vedere quanto le gambe e il resto del corpo riescono ancora a muoverli quei piedi, insomma. Credo che questo sia il problema. Però sono ipotesi e sono punti di vista. E questa era la prima. La seconda? Era Sonicchi, che mi sembrava una verginella in mezzo ai lupi quando si lamentava e faceva tutto il santo. Io dico, ma dove credi di essere? Insomma, ti hanno messo lì anche per gestire situazioni. Basta, tutto qua. Sì, non non mi pare che abbia fatto la verginella, mi pare che abbia fatto, sì, comunque non ha molta importanza l'etichetta. Trovo invece estremamente grave quello che lui ha detto, in particolare la scorsa settimana, e cioè basta, se vi comportate così, rivolto ai giocatori in genere tesserati di Milan e Juventus, ma insomma prendendo lo spunto, no, da questo disastro ambientale che era successo a San Siro, d'ora in poi applicheremo il regolamento. Frase inaccettabile da parte di chi deve vivere di regolamento e preoccuparsi che quello e soltanto quello venga applicato da parte dei suoi amministrati. Marco ha chiamato dalla provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo solo fare una considerazione sull'Inter. Io non credo assolutamente che sia una squadra bollita, perché c'è un mix di, è vero, c'è dei vecchi ma c'è dei giovani anche molto forti. Secondo me è più un blocco mentale, perché anche ieri sera a un certo punto con Pattini aveva la possibilità di fare il 3-2. Vabbè, Marco, adesso però scusi, siamo d'accordo, è vero, l'ha avuto, così come aveva avuto la domenica prima la palla dell'1-1 Pazzini alla fine. Dopodiché può essere verissimo che ha il giusto mix di vecchi e di giovani, lei dice solo un problema psicologico, però non mi dica semplicisticamente che se lei ha visto tutta la partita di ieri sera in fondo la poteva vincere. Questo vuol dire non prendere atto della situazione, insomma. No, le do più che ragione, è cioè, vero. La poteva vincere, ma la poteva straperdere in casa col Catania dopo aver perso col Bologna e col Novara di fila, o no? No, ha ragione, io voglio solo dire che sta attraversando un momento veramente delicato, però secondo me è più a livello psicologico che di forma dei giocatori, secondo me. Questo potrebbe anche essere, però questo chiama in causa chi e che cosa, allora? Com'è? Non ho capito. Questo, supponiamo che sia così, perché in effetti ci sta e come, ma chi chiama in causa, allora? I giocatori stessi, io credo. Sì, certo. C'è qualcosa che non va, secondo me, a livello di testa. Ma non di mancanza di volontà. No, mancanza di volontà no, perché quando Lucio mette giù il testone e cerca di dribblare, perde la palla e prende un contropiede, lui la buona volontà di andare a far gol ce l'ha, come all'oratorio, intendiamoci, come all'oratorio, dove però se hai dei compagni un po', come dire, di temperamento, lo fai una volta, ma la seconda non la fai più. E invece lui continua a farlo ogni domenica, ma gliene dico una a caso soltanto, tra le nefandezze che si vedono. Io credo che alcuni di questi giocatori, lei dice, sono un mix di cose. Beh, insomma, io credo che qualcuno in avanzata fase di cottura comunque ci sia, indipendentemente da tutto il resto. Allora, sentite la musichetta, l'ha inserita Pietro Lacorte per ricordare che non stanno mancando molti secondi alla conclusione della puntata di oggi, per cui ringrazio lui che ha curato la regia, Franco Piantanida per la parte relazionale. L'appuntamento a domani.